Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Ci sono tanti tipi di atleti, ci sono quelli potenti, quelli brillanti, quelli molto competitivi. E poi ci sono gli atleti che non si limitano a essere dei grandi sportivi, quelli che sono anche dei grandi uomini, gente che fa la differenza soprattutto fuori dai campi di gioco, nella vita. A questa categoria appartiene l'uomo di cui voglio parlarvi oggi, Arthur Ashe. Forse a qualcuno di voi, ai più giovani, il nome non dice niente, ma Ashe è stato un numero uno del tennis mondiale, è uno che ha vinto Wimbledon, non è l'unico direte voi, però è stato il primo e unico giocatore di colore ad averlo fatto, in un'epoca, peraltro, stiamo parlando della fine degli anni 60 e primi anni 70, in cui il razzismo in America era ancora quello della segregazione, che è stata abolita dalla Corte Suprema nel 68, e i neri venivano veramente messi al bando. Bene, Ashe è stato un atleta di colore che ha giocato in uno sport come il tennis completamente dominato dai bianchi ed è riuscito a vincere combattendo una sua personale partita con eleganza, con fair play e con una tenacia degna dei grandi. Sono cresciuto durante la segregazione e so cosa significa venire calpestati. Quindi so anche quanto sia importante vedere un uomo di colore essere d'esempio e comportarsi bene di fronte alle avversità. È difficile trovare nello sport un uomo come Arthur Ashe, uno che partendo dal tennis ha saputo trasformare le racchette in armi perfette per combattere sul campo il razzismo prima e la malattia dopo. Quello che non vorrei alla fine di tutto è essere ricordato solo per essere stato un buon tennista. Non significherebbe niente per la società, perché è stata una cosa egoistica. L'ho fatto solo per me di vincere gli US Open o Wimbledon, non per gli altri. Ma se riuscissi a scoprire un nuovo vaccino, che so, per combattere la fibrosi cistica, allora sì che sarei un buon esempio. Beh, Ashe non scopre un vaccino, però riesce a fare qualcosa di non meno importante quando nel giugno del 75 sconfigge il fortissimo Jimmy Connors sull'erba di Wimbledon dopo 125 minuti di un match serratissimo con un giocatore di 10 anni più giovane di lui, considerato in quel momento invincibile. Lui compie un'impresa che va oltre il tennis, acquista in quegli anni un significato di incredibile potenza per la gente di colore, cioè i neri non sono più oggetti, ma soggetti della loro esistenza. Sono uomini liberi di scegliere una carriera, una passione, una vita. Questo è quello che rende Ashe diverso da tutti gli altri, anche da chi vinceva più di lui, come la tennista americana bianca Chris Evert. Probabilmente non metteva tutto se stesso nel tennis. Probabilmente avrebbe potuto vincere molti più titoli se avesse voluto, ma la realtà era che Arthur aveva cose molto più importanti nella sua testa. Non si trattava solo del tennis. Lui voleva davvero fare qualcosa per il mondo. Per lui non si trattava solo di perfezionare i suoi colpi ad effetto o i rovesci. La prova che Ashe ha lasciato il segno nel mondo dello sport si trova nel complesso di Flushing Meadows nel Queens di New York, dove il più grande campo da tennis al mondo, il campo centrale, è stato battezzato Arthur Ashe Stadium in suo onore. È qui che ogni anno si gioca la finale degli Open degli Stati Uniti. Esiste anche un premio, l'Arthur Ashe Courage Award, che viene consegnato a quegli sportivi che con il loro impegno trascendono il mondo dello sport. Ma com'è successo che un ragazzino allampanato del sud è arrivato a tutto questo? Un ragazzino nero, intendo. He saw the ring on his finger there, and that made him smile. He said, no, all I got to do for her is put a stater to between us. Famosa citazione di Arthur Ashe che dice: comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi. Quando Ashe la pronuncia sta pensando a dove ha cominciato lui, a Richmond, capitale della Virginia, Stati Uniti del Sud. Oggi sulla Monument Avenue, insieme alle statue dei padri della Confederazione, ce n'è anche una che ritrae Ashe con un libro e una racchetta nelle mani. Però quando Arthur nasce, il 10 luglio del 43, la situazione non è così trionfale. Sono gli anni in cui la segregazione razziale è una cosa seria. I neri non possono utilizzare i bagni dei bianchi, non possono prendere lo stesso autobus, figuriamoci se possono giocare a tennis assieme. Però il caso disporrà diversamente. Intanto perché il padre di Arthur è il custode di un grande parco per soli neri, che ha anche dei campi da tennis. È vedovo perché la moglie muore a 27 anni dopo aver messo alla luce il secondo figlio Johnny. E senza la moglie i due fratelli Ashe sono tirati su dal padre con pazienza, con amore e con una buona dose di fermezza. Era stato cresciuto da un padre di buon senso che voleva che suo figlio fosse un ragazzo educato, che sapesse rispettare la gente e che non fosse insolente, e ha cresciuto Arthur in questo modo fin da piccolo. Arthur è un bambino nero, mingherlino, che indossa gli occhiali, e il padre è preoccupato perché gli sport tradizionalmente giocati dai neri, che sono il football americano e il basket, non sono assolutamente adatti al suo fisico, e quindi approfitta dei campi in fondo al parco per avvicinare Arthur al tennis. In breve il ragazzo diventa così bravo che attira l'attenzione del dottor Johnson, che è un allenatore di colore che ha già portato alla vittoria di uno slam la campionessa nera Althea Gibson. Sotto la guida di Johnson, Arthur a 12 anni diventa il miglior tennista di Richmond, però non può provarlo a nessuno, neanche a se stesso, perché per colpa della segregazione i neri non possono giocare con i bianchi, è impossibile per loro misurarsi con tennisti dello stesso livello, gli viene impedito perfino di partecipare a un torneo amatoriale. Certi ricordi, anche se lontanissimi, non si dimenticano più. Mi fu negato il permesso di partecipare al torneo di tennis al Bird Park di Richmond, dove c'erano campi solo per bianchi. E mi ricordo che parlai con Sam Woods, che allora gestiva il torneo, il quale fu molto gentile, molto disponibile, e mi guardava con un'aria davvero dispiaciuta. In fondo, era un ragazzino di 12 anni. Mi disse che se fosse ripreso da lui, mi avrebbe lasciato partecipare, ma la legge era la legge e io non potevo giocare. Così me ne andai col mio allenatore, sapendo che l'unica ragione per la quale io non potevo restare lì era il fatto di essere nero. Beh, l'episodio naturalmente lascia un segno profondissimo in Arthur, ma paradossalmente segna anche l'inizio di una carriera che porterà Ashe alle vette del tennis mondiale. Credo che in maniera silenziosa ma efficace l'episodio mi incoraggiò ad adottare un atteggiamento del tipo: vi farò vedere io. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Arthur Ashe, di un ragazzino nero che a 12 anni è già un grande tennista, ma non ha la possibilità di dimostrarlo per via della segregazione razziale. Quindi fin da bambino lui prende coscienza che c'è un sistema che va contro di lui e che se vuole ottenere quello che desidera deve impegnarsi molto di più dei giocatori bianchi. Non ci veniva detto: questo è ciò che dovrete accettare per il resto della vostra vita. Ci veniva detto: ehi, dovrete fare meglio dei bianchi, dovrete provarci molto di più. Eh sì, perché gli Stati Uniti del Sud negli anni 50 sono un mondo nel quale ai neri veniva insegnato fin da piccoli a non reagire mai, non rispondere alle provocazioni, perché le conseguenze sarebbero state terribili. Per Arthur sono anni difficili, pieni di rifiuti, poche soddisfazioni, un senso di ingiustizia che sporca ogni gioia. Don't try. Now we're always. così lui impara a sfogare la sua frustrazione sul campo, impara che non c'è niente come l'impegno per ottenere quello che si vuole. La sua racchetta può diventare un'arma molto pericolosa. Così quando il dottor Johnson comprende che a Richmond ci sono poche possibilità per lui, lo manda a studiare a St. Louis nel Missouri. Così Arthur deve lasciare la famiglia per potersi finalmente confrontare con avversari del suo livello e a vincere. E si mette in luce tanto che la famosa UCLA, l'Università della California, gli offre una borsa di studio. Si diploma con il massimo dei voti e nel 63, a 20 anni, Arthur si trasferisce a Los Angeles e basta poco per ottenere nello stesso anno un posto addirittura nella squadra statunitense di Coppa Davis. È il primo afroamericano a raggiungere questo risultato. Sono anni molto intensi, nonostante i continui allenamenti. Nel 66 lui si laurea in economia. Concludere l'università però vuol dire finire sotto le armi, sono gli anni della guerra in Vietnam. A tutti i ragazzi tocca il servizio di leva, Arthur è pronto a fare il suo dovere, anche se partire al culmine della sua carriera tennistica sarebbe una catastrofe. E il fratello minore Johnny gli viene in aiuto perché decide di andare lui in Vietnam, e in quegli anni si andava in Vietnam un fratello alla volta, prudentemente, e quindi Johnny, e forse addirittura Dio, decide di dargli una mano. Fu ispirato da Dio, doveva essere stata un'idea di Dio, perché non poteva essere un'idea mia. Decisi di restare per un altro turno. Così, tornando un giorno a casa, sorpresi papà dicendogli: non voglio che Arthur vada in Vietnam. Eh sì, Johnny si sacrifica per il fratello, decide di restare in Vietnam. Per fortuna torna, e il sacrificio comunque è grande e Arthur non lo dimenticherà mai. Comunque è un sacrificio che produce dei frutti, perché nel 68 Arthur Ashe vince gli US Open maschili, è il primo nero a vincere un torneo del Grande Slam. È ancora dilettante, quindi non vince premi in denaro, però ottiene il primo posto nella classifica mondiale dei tennisti di quel l'anno. Tutto sembra filare liscio, ma basta un anno per capire che le cose non sono poi tanto cambiate rispetto ai suoi giorni a Richmond, perché siamo nel 69. Ashe fa richiesta, come tutti i tennisti, di un visto d'ingresso per il Sudafrica per partecipare agli Open di Johannesburg. Bene, il visto gli viene rifiutato. Una chiacchierata con l'amico tennista sudafricano Cliff Drysdale fa realizzare ad Ashe cosa vuol dire realmente l'apartheid. Quando a Wimbledon Cliff Drysdale mi disse che se avessi voluto giocare in un Open in Sudafrica non avrei potuto, perché non era permesso a bianchi e neri di giocare insieme, mi tornò in mente quello che mi era successo quando avevo 12 anni e non potevo permettere che succedesse di nuovo. Così l'attenzione di Ashe si sposta dal sud degli Stati Uniti al sud dell'Africa, perché comincia a promuovere, a sostenere l'embargo sportivo al governo di Pretoria. La causa anti-apartheid diventa la sua nuova battaglia. Le sue vittorie sembrano tutte indirizzate a creare una situazione che denunciasse il Sudafrica per il suo razzismo. Con la vittoria nel 70 del suo slam, del suo secondo slam all'Australian Open, lui ormai è un tennista di fama mondiale, quindi il rifiuto di concedergli il visto per giocare all'Open sudafricano diventa, anno dopo anno, sempre più stridente. Per Arthur era importante che i neri sudafricani vedessero quanto si potesse ottenere dalla vita, perché era gente privata di ogni possibilità, mentre lui era l'esempio vivente di cosa si riusciva a fare quando si riceve un'opportunità. Di nuovo, il tennis diventava il suo mezzo per poter dare il suo contributo nel mondo. Il via libera arriva finalmente nel 1973, quando per la prima volta ad Ashe viene permesso di entrare in Sudafrica e calpestare i campi di Johannesburg, e tra l'altro batte anche dei tennisti sudafricani bianchi. Eppure in Sudafrica non è che siano rose e fiori per lui, perché lui è spiato, seguito dagli agenti del governo, e anche gli attivisti neri nel frattempo gli rimproverano di legittimare con la sua presenza il governo sudafricano e quindi l'apartheid. Eppure anni dopo i fatti daranno ragione ad Ashe. È il 1990 e al sindaco in carica allora, l'afroamericano di New York David Dinkins, giunge una richiesta da un visitatore molto importante. Nel 1990, quando Nelson Mandela venne rilasciato dalla prigione, fra le prime cose che decise fu di venire a New York. Fu il primo posto che scelse di visitare fuori dal Sudafrica e una delle prime persone che volle incontrare fu Arthur Ashe. Eh sì, perché a differenza degli attivisti sudafricani, Mandela, che è un politico, è un uomo di larghe vedute, e peraltro è un fan di Ash, comprende benissimo che il tennista è l'esempio migliore per far capire al suo popolo che si può essere neri e uomini liberi. È un insegnamento che lui considera importantissimo. Quando un uomo di colore raggiunge un tale livello di successo, diventa molto di più che una fonte di ispirazione, diventa una benedizione per tutti i suoi connazionali. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la battaglia umana, sociale e sportiva di Arthur Ashe, il primo tennista di colore a vincere 3 slam, tra i quali Wimbledon, il primo a raggiungere il primo posto nella classifica dei migliori tennisti del mondo. Gianni Clerici, che lo conosceva bene, lo definisce un giocatore velocissimo e leggero. Comunque il suo impegno non finisce sui campi da tennis. Lui è cresciuto nel sud degli Stati Uniti durante gli anni della segregazione razziale e non si limita a giocarci a tennis. Quello che vuole è che il tennis dia a lui e quindi a ogni ragazzino di colore, di riflesso, l'opportunità di poter scegliere liberamente cosa fare di se stesso, avendo le stesse chance che vengono date ai suoi coetanei bianchi, e lui lo chiede a gran voce, sfruttando una notorietà sempre maggiore, una notorietà che nel 1975 raggiunge il suo culmine. 5 giugno 1975, peraltro, il giorno del mio 18° compleanno, ma non c'entra niente, e quel giorno il cielo sembra una orzata lattiginosa sopra i campi di Wimbledon, e in campo scendono i 2 finalisti della competizione. Jimmy Connors, 23 anni, che l'anno prima ha vinto non solo il torneo inglese, ma anche l'Australian Open, il US Open, insomma, detentore della prima posizione nella classifica mondiale, e Arthur Ashe, che ha 10 anni in più di Connors e non è certo il favorito in quel match. Eppure Ashe appare sereno. Non vedo l'ora di essere in campo. In un certo senso si può dire che mi sono preparato per tutta la vita. Ma per quanto sarà un match difficile, non mi sento così nervoso come pensavo. Credo che sarà proprio un bel match. Credo che ne vedremo delle belle. Fra i due non c'è molto feeling. Connors è conosciuto per le sue scorrettezze, l'antipatia, gli insulti, le esplosioni umorali. Insomma, è un giocatore matto e spettacolare. Ashe è esattamente il contrario. È sempre serio, controllato. Molta della sua compostezza in campo è dovuta al suo carattere. Dietro c'è anche un grande lavoro su se stesso, cioè è la diretta conseguenza di una vita trascorsa cercando di non prestare il fianco ai soliti pregiudizi razziali. Se dovessi esplodere, la gente direbbe, ecco, il tipico comportamento da negro. Alla gente piace generalizzare sulla base dei comportamenti specifici di alcuni neri, e da qui si finisce per dire che tutti i neri si comportano allo stesso modo. Fin dall'infanzia, grazie non solo agli insegnamenti del padre, ma anche a quelli del dottor Johnson, ricordate, il suo primo allenatore, Arthur ha imparato un certo tipo di comportamento in campo. Si cerca di restare composti, di prendere anche le palle che vanno oltre la linea, nel dubbio, insomma, senza polemizzare coi giudici di gara. Il suo è un addestramento rigido, pieno di restrizioni, di doveri, di contenimenti. Forse ci sono state volte in cui Ashe può aver invidiato la libertà che si prende uno come Connors, però non è questo il suo stile. Mi sarebbe piaciuto fare lo stronzo in campo, almeno una volta. Però lui invece entra in campo rilassato, ma anche concentrato. Indossa la giacca della squadra della Davis Cup. Non è una casualità, è una scelta ben precisa presa insieme al suo agente amico Donald Dell. Voleva dare un messaggio a Connors e quindi entrò in campo indossando la giacca della squadra americana, che Connors non aveva perché non ne faceva parte, mentre Arthur sì. Lui c'era quando avevano vinto gli US Open, c'era stato sempre, per anni, ed era orgoglioso di quella giacca. Perché no? L'avevamo fatto apposta, volevamo mandargli un messaggio. prima mossa azzeccata. Intanto la finale inizia, Connors è il super favorito e nessuno può immaginare quello che sta per succedere, perché Ash costruisce una partita cerebrale, una partita tattica che finisce per snervare l'irruento Connors, tanto che quando uno spettatore gli grida "Dai Jimmy", lui risponde aggressivamente "Cristo, ci sto provando", e nel frattempo Ash approfitta di ogni pausa per restare a occhi chiusi e meditare. Era assolutamente sul pezzo. Addirittura durante la pausa si metteva un asciugamano in testa per non venire distratto da quello che succedeva in campo e continuare a pensare al match. Vedevi quanto fosse importante per lui, quanto fosse emozionato. Eppure riusciva a mantenere la calma. Era freddo come un ghiacciolo. Queste sono le ammirate parole di Martina Navratilova, una che di tennis se ne intende, che era in quella partita magica sugli spalti assieme a Stan Smith. Fu un match quasi ipnotico, perché Arthur giocava con uno stile assolutamente diverso dal solito. Lo vedevamo giocare con Jimmy in un modo davvero inaspettato rispetto a tutto il resto della sua carriera. Oh, I say, that's a really crude shot. E anche Jimmy, che non se lo aspettava, iniziò a sentirsi frustrato, il che ovviamente lo rese più debole. 30-15. E alla fine questo mesmerizing match, come lo definisce Smith, va ad Arthur Ashe al nono tentativo, è il primo nero a vincere a Wimbledon e per Ashe è un giorno storico, resta l'unico uomo di colore ad avere vinto sulla erba di Wimbledon. Per Connors è una sconfitta che non offusca un periodo comunque di grandi successi, però che gli brucia tanto, almeno a giudicare dai suoi commenti a fine partita. Sono trovato di fronte a un Arthur Ashe molto tosto, che ha giocato come un vero finalista di Wimbledon e forse, sfortunatamente, io ho contribuito a facilitargli la cosa. Dopo questa vittoria Ashe si dedica anche alla vita privata. Nel 77 si sposa con una giovane fotografa, Jen Mutusami, con la quale adotta una figlia, Camera. Ma nel 79 la sua carriera professionale finisce improvvisamente. Ashe ha un infarto e viene sottoposto a un intervento per inserirgli 4 bypass. Non può più affrontare lo stress del gioco in campo. Questo non vuol dire smettere di essere un professionista. Diventa capitano della squadra americana che gioca in Coppa Davis dall'80 all'85, vince 2 volte il titolo, la Coppa, ma nel suo fisico qualcosa sembra che continui a non funzionare. Così nel 1988 la moglie e il suo agente Donald Dell gli consigliano di farsi delle analisi. Svenne un paio di volte e pensammo che potesse avere un tumore al cervello. Quindi andammo all'ospedale di New York, ma tutti i test che facemmo risultarono negativi. Io ero felice, non hai un tumore, fantastico, ero sollevato. Ma Ginny, sua moglie, mi disse: Arthur vuole parlarti. C'era anche il dottore e la moglie, e Arthur mi disse: i dottori mi hanno detto tutto, ho l'AIDS. Questo mi hanno detto, ma io non ci credo, io non posso avere l'AIDS. Se l'era preso durante la seconda operazione che gli fecero all'Harlem Hospital con una trasfusione di sangue infetto. Non era solo positivo all'HIV, era già AIDS conclamato all'ultimo stadio quando l'hanno scoperto. Ashe decide di affrontare questa notizia terribile a modo suo, cioè quietamente. Per quasi 4 anni solo pochi amici vengono messi al corrente della sua malattia, ma nel 92 Ashe viene contattato dalla rivista USA Today che gli chiede una dichiarazione sulle voci del suo contagio. E lui è furioso per questa ingerenza nella sua vita privata, si vede costretto a indire una conferenza stampa per anticipare sul tempo il giornale. Sin dalla mia operazione al cervello nel 1988 so di avere l'AIDS. Mi è stato trasmesso da una trasfusione di sangue infetto durante una delle operazioni per i miei bypass. Molto probabilmente durante la seconda operazione nel 1983. La conferenza stampa diventa però l'occasione per recuperare un impegno mai sopito e per gli amici è un sollievo vedere che anche nella malattia Arthur resta un combattente. Circa due o tre mesi dopo aver dichiarato di avere l'AIDS, creò la sua fondazione per combattere la malattia e durante quel periodo credo che riuscì a raccogliere circa 10 milioni di dollari. Ma la cosa più importante fu che aiutò le persone ammalate di AIDS a superare il rifiuto della gente, facendogli sapere che anche lui era malato, si impegnò a fargli capire che non dovevano rinchiudersi nel loro guscio. L'ultima apparizione in pubblico è durante il Connecticut un forum sull'AIDS nel 1993 e non può partecipare fisicamente a causa della sua salute, però invia un video dove ancora una volta fa appello alla comunità per sensibilizzare i giovani sull'AIDS. Il 6 febbraio 1993, dopo che sono trascorsi solo due giorni dal suo saluto al Connecticut Forum, è di nuovo il momento di fare un annuncio su Arthur Ashe. And I'm not sure that I'm strong enough to make this announcement. Non so se sono abbastanza forte per fare questo annuncio. I'm going to read an item off of the Associated Press wire. Devo leggervi un comunicato rilasciato dall'Associazione della Stampa. Alle 3:15 di oggi è morto Arthur Ashe per una polmonite e altre complicazioni dipendenti dall'AIDS. Mi spiace davvero molto per Arthur e per la sua famiglia. And I'm very sorry for Arthur and his family. Eh sì, la parabola terrena di Arthur Ashe si chiude a 49 anni e rimane attivo fino all'ultimo. Solo pochi mesi prima di spegnersi partecipa a una manifestazione in favore dei rifugiati haitiani dalla quale viene portato via in manette. C'è una sua citazione che secondo me racchiude in una sola frase la sua intera esistenza, che mi sembra può chiudere questo pomeriggio degnamente. Il vero eroismo è molto sobrio. Non si nutre di drammi. Non è la voglia di superare tutti gli altri a qualunque costo, ma la voglia di servire gli altri a qualunque costo. E beh, queste sono le frasi che distinguono gli uomini grandi dagli uomini comuni. Ci sono storie che sono spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare questo colpo d'ala. Arthur Ashe ne ha saputi dare parecchi, soprattutto, come dice lui, non per superare gli altri, ma per servire gli altri. Se avete delle storie che ritenete sarebbe bello che noi raccontassimo, fatelo, pagine Facebook, trovatemi, o altrimenti al falcoelgabbiano@radio24.it. insomma, io aspetto consigli e anche complimenti che fanno sempre piacere. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.